America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, in America veniamo il periodo delle lauree, della graduation. Dopo 4 anni di college, università, ci si affaccia, i giovani si affacciano a un mondo del lavoro difficile. Ecco, in queste cerimonie della graduation c'è sempre un discorso importante di un personaggio importante, e poi queste celebrazioni, devo dire, sono sempre commoventi, in particolare quella di ieri a Rochester University, dove ha ricevuto una laurea honoris causa e ha parlato agli studenti niente meno che il presidente Barack Obama. Ecco, per questo voglio dedicare la copertina della settimana proprio a queste graduation, ai giovani americani che guardano al futuro in un momento difficile. Sentiamo Obama. Ecco, Obama ha scherzato, ha detto che gli studenti lo hanno convinto a venire dopo una campagna di 3 anni, mi hanno mandato email, hanno messo messaggi su YouTube, dice, mi ha persino scritto una nonna, e devo dire, io ho un debole per le nonne. C'erano 52.000 persone, 12.000 studenti, grande commozione, come vi dicevo, e grande atmosfera. Nel discorso Obama ha fatto importanti riferimenti politici a quello che sta capitando nel nostro tempo. Non ha mai parlato di Trump o della campagna elettorale, ma ha sempre parlato dei valori sottostanti alla minaccia Trump, ad esempio quella dei muri impossibili in un mondo che sarà sempre più interconnesso, ha detto Obama. Oppure quando ha parlato dei valori, dice, beh, qualcuno afferma che prima si stava meglio, che dobbiamo recuperare certe grandezze, ma è vero che prima si stava meglio, quando non c'erano diritti civili, quando la medicina non aveva fatto i progressi che aveva fatto, e poi così via, una lista continua. Ma c'è un passaggio in particolare che voglio farvi ascoltare, in cui Obama va al cuore del problema, e riguarda la presenza di dilettanti allo sbaraglio. Di nuovo Trump, ovviamente, possono esercitare, dice Obama, una presa sull'opinione pubblica, ma sono un pericolo. Sentiamo. If you were listening to today's political debate, you might wonder where this strain of anti-intellectualism came from. Ecco, di nuovo, se state ascoltando il dibattito politico di questi giorni, dice Barack Obama, potete chiedere da dove provengono queste forme di anti-intellettualismo. Lasciatemi essere chiaro, nella politica e nella vita l'ignoranza non è una virtù. Beh, chi è ignorante oggi nella politica americana? Ovviamente Donald Trump è accusato di esserlo, però questa sua ignoranza appunto diventa in qualche modo una virtù, gli scivola tutto addosso, perché la gente è stufa del politically correct, la gente è stufa del politico che parla secondo determinate formule precostituite, e quindi sente qualcuno che parla, come si dice, parla come mangia, e dunque lo apprezza. Ma questo è un pericolo, dice Obama, non è bello non sapere di cosa si sta parlando. Qui non si tratta di sfidare, dice, il politicamente corretto, e solamente non sapere di che cosa si sta parlando. E dunque l'ignoranza, quando i nostri leader esprimono disprezzo per i fatti, quando non sanno di che cosa stanno parlando, non hanno la responsabilità delle cose che dovranno affrontare, beh, allora davvero abbiamo un problema. Perché, dice Obama, se dovete andare da un dottore, volete che sia un dottore bravo se vi dovete far operare, se dovete andare in un ristorante, volete che ci sia un cuoco che sappia cucinare. Beh, lo stesso vale per la leadership politica nella gestione di un paese. Le persone devono essere preparate. Qui non si tratta di snobismo intellettuale, si tratta di duro lavoro e di conoscenza. Obama, dunque, in campo politico è stato finora l'unico a far saltare i nervi a Trump, per esempio nella cena dei corrispondenti della Casa Bianca un paio di anni fa, e devo dire che alla fine sarà lui il vero concorrente di Trump. Trump dovrà battere Barack Obama più che Hillary Clinton se vorrà vincere la Casa Bianca del 2016, e questo, devo dire, dopo il discorso di ieri, non sarà automaticamente facile. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno, The Graduate, il laureato. Direi che propongo, dal tema di The Graduate, è stato un grandissimo film di Nichols, la canzone Mrs. Robinson, che è una canzone sulla perdita dell'innocenza di questo giovane laureato. La signora Robinson, appunto una signora di mezza età, cerca di sedurlo. La storia è bellissima, film meraviglioso, ma la canzone ha un significato che va direttamente al cuore di quello che ci ha detto Barack Obama, perché nel testo si dice: Mrs. Robinson, tu vai al dibattito dei candidati, difficile scegliere, dovunque guardi ti sembra di perdere. Dove sei finito, Joe DiMaggio, grande mito americano naturalmente? Una nazione intera gira verso di te i suoi occhi solitari. Che dici, Mrs. Robinson? Jolting Joe se n'è andato ed è sparito. Beh, direi è il messaggio di Barack Obama. anche quando si pensava di stare meglio, forse si stava peggio. Mrs. Robinson. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.